Incontri di Gianfranco Fabi. Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese. Se potessi avere 1000 lire al mese, una canzone del passato, si sente anche dalla registrazione, Gilberto Mazzi, 1939, buongiorno, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano, buongiorno e buon pomeriggio ad Andrea Giussani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andrea Giussani, presidente del Banco Alimentare, ne parleremo dopo, ma adesso cominciamo da 1000 lire al mese. 1939, Andrea Giussani non era ancora nato. No, fortunatamente no, vuol dire che non ne ho così tanti. Ecco, quindi una persona matura, indubbiamente, che ha avuto una lunga carriera professionale in vari ambiti, poi ce la spiegherà, che da qualche mese, qualche anno è presidente del Banco Alimentare, che è un'organizzazione non profit. Sì, è una onlus, è una fondazione ed è una rete di associazioni. Ecco perché piace questa canzone, 1000 lire al mese. Innanzitutto perché una onlus, uno pensa, pensando alla mia esperienza attuale, pensa una onlus, volontariato, gratuità, tutto bello, tutto ideale, no? Tutto che funziona, gente buona, no? In realtà è una fatica e che si sostiene anche con i soldi. E quindi la poesia fa in fretta a sparire o perlomeno a scontrarsi con la dura realtà, le onlus hanno bisogno per sopravvivere, sentono la crisi come gli altri, hanno bisogno di soldi. Quindi 1000 lire al mese, ma soprattutto perché con 1000 lire oggi uno dice ma cosa compro con un euro o mezzo euro, non compro più niente. Bene, l'esperienza, ma faccio solo un flashpoint, se vogliamo ne parliamo più approfonditamente, l'esperienza del banco dice che con un euro si producono 20-22 euro di alimenti per una persona indigente. Quindi il valore della moneta, 1000 lire al mese, in realtà dipende dall'utilizzo, non dal suo valore intrinseco. Che è un po' una cosa rivoluzionaria di fondo al mondo della finanza, che pensava di fare i soldi con i soldi. Invece qui si fa del bene con i soldi. Sì, si fa del bene con i soldi e soprattutto si moltiplica un valore per n volte, 15, 20, 22, stiamo sforzandoci di aumentare questo valore e facendo un mestiere che è quello di recuperare alimenti che sarebbero buttati via, quindi che avrebbero valore zero o negativo perché producono danni. Certo, invece di trasformare questi alimenti che sono ancora al limite, diciamo, della loro conservazione, ma che possono essere comunque utilizzati in perfetta regola e vengono ridistribuiti, diciamo così, dai ricchi ai poveri? Sì, o perlomeno da... Ma io più che dai ricchi direi da tutti noi. Quindi se noi siamo ricchi, ma anche da persone che vivono una degna vita, soprattutto dai produttori e distributori di alimenti, che in questa società di oggi, che velocemente consuma ma anche velocemente spreca, scoprono o possono scoprire di avere una seconda vita. Alimenti destinati a essere persi hanno una seconda vita per chi non ne ha. Ecco, volevo magari fra qualche minuto proprio come è organizzato, come funziona il Banco Alimentare, che è ormai una realtà diffusa un po' in tutta Italia. Però io vorrei tornare poi un po' anche alla logica di questo programma che si chiama Incontri, che è l'incontro appunto con una persona, Andrea Giussani, che è arrivato appunto negli ultimi anni ad avere questo ruolo di grande responsabilità all'interno del Banco Alimentare. Ma come ci è arrivato? Qual è stata la sua esperienza, diciamo, umana ma professionale? Sì, io non sono del 39 ma di 10 anni dopo, quindi qualche annetto comunque ce l'ho. Ho passato quasi 40 anni in aziende, di solito tendenzialmente multinazionali, ho fatto tutti i mestieri possibili che si fanno in azienda, quindi potremmo dire con delle definizioni un po' schematiche, sono un manager delle multinazionali o delle grandi aziende italiane, ricerche di mercato, marketing, organizzazione, personale, e alla fine negli ultimi 15 anni ero in una compagnia di assicurazione dove ho terminato con grande soddisfazione nelle posizioni più apicali di questa compagnia di assicurazione. E quando mi si è avvicinato il momento della pensione, in parte devo dire un po' forzato, come accade ai giorni nostri, perché nelle fusioni, le grandi fusioni aziendali, certo, poi si riducono anche le posizioni, quindi ti fanno capire che ho pensato molto semplicemente, molto banalmente, ho ricevuto tantissimo dalla vita, qualcosa devo dare indietro. E quindi mi sono chiesto come poter dare indietro. Ho tanti amici, fortunatamente, tante relazioni. Una di queste, la più convincente, è stata: vieni a introdurre un po' di managerialità in un'azienda, in un'organizzazione che fa del volontariato la sua bandiera, ma in realtà ha bisogno di tanta organizzazione e di metodo. Perché anche per sopravvivere a questi giorni, perfino non un'azienda profit ma no profit, ha bisogno di metodo. Di metodo, quindi di managerialità, quindi di efficienza, di capacità di essere anche all'interno di una realtà che non è di mercato ma che comunque è all'interno del mercato. Ecco, ma in questa prospettiva, poi magari non ne parliamo più, ma come sono cambiate le aziende dal 1970, gli anni 70 in cui è entrato in azienda, gli anni 2000 in cui dalle aziende è uscito, in questi 40 anni di esperienza aziendale? Come sono cambiate le grandi imprese multinazionali in Italia? Beh, io vedo vari aspetti, anche perché appunto ho vissuto il periodo di quasi, non dico di boom, ma certo di grande sviluppo, di grandi investimenti. È un periodo l'ultimo, ma in realtà io l'ho provato molto prima, perché sono stato in aziende che hanno fatto ristrutturazioni prima ancora della crisi, no? A periodi in cui bisogna stare più attenti ai costi. Ora, a me sembra che questo sia un grande dato di realismo, cioè non si può pensare che si viva anche nelle aziende più ricche, più di successo, che si viva con gli stessi ritmi e gli stessi costi di gestione di 20 anni fa. Però è anche vero che si può tagliare, ristrutturare, dare efficienza in modi diversi. Io ho visto alcune fasi aziendali delle aziende dove sono stati, dove insieme alla possibilità di ridurre i costi e qualche volta, se non di ridurre il personale, di stare attenti molto di più all'efficienza dei processi di lavoro, sì, però nel contempo si guardava avanti. Perché se uno pensa ai conti del mese o ai conti dell'anno, secondo me oggi più di ieri fa il male dell'azienda. Quindi non vuol dire sperperare o investire e non curare il costo, ma vuol dire pensando sempre che c'è un dopo. È un po' come, se vogliamo, in una partita di pugilato, in una match di pugilato. Se uno prende un pugno, non può solo pensare a schivare quello, deve pensare che poi avrà l'occasione magari di tirarne uno lui. Quindi di prepararsi al round successivo. Ecco, però la crisi degli ultimi 5 anni ha complicato molto le cose per le imprese. Avere questa prospettiva in questa fase è certamente più difficile che nel passato. È più difficile, richiede più creatività, richiede più, io credo, anche solidarietà della professione, cioè fare attenzione che tutti possono dare qualcosa, molti possono dare qualcosa, ma vanno utilizzati al meglio, vanno sviluppati, vanno motivati. Ecco, io la mina più grande, il pericolo più grande che vedo di questi tempi è che vi sia un tasso di sfiducia o di abbandono al fatalismo tale per cui nessuno ci mette più la voglia, e questa sarebbe la massima condanna per la nostra società. Ecco, diceva che gli ultimi 15 anni di vita aziendale è vissuto in un'assicurazione, anche ad alti livelli delle assicurazioni. In Italia ci si assicura ancora poco? Ci si assicura pochissimo, salvo ovviamente le coperture obbligatorie sia, certo, di lavoro che di RC auto, ma nella vita, diciamo, della famiglia ci si assicura poco. Pensiamo al furti, l'abitazione, i danni abitativi, perché io credo sia una specie di tenaglia. Da un lato una pessima immagine che le compagnie di assicurazione hanno saputo creare negli anni 50-60, vissute quasi come forme di truffe legalizzate, cose di questo genere, e che è colpa forse di una cattiva fama, forse di un'operatività non brillante di quegli anni. Oggi secondo me non è più così. Secondo aspetto è che forse l'italiano medio non crede in meccanismi di tutela o di conservazione dei propri beni di quelli che sono formulati in termini di bilanciamento economico. Quindi faccio un esempio: è meglio mettere una porta blindata o un allarme in casa propria, certo, che non coprirlo con una assicurazione. Ecco, ma questo dipende anche un po' da una visione. L'assicurazione in fondo è una specie di solidarietà, perché si divide il rischio tra quanti partecipano all'assicurazione, ma questo aspetto forse è messo in secondo piano da chi si assicura. Certamente è così. La mutualità, cioè la divisione del rischio in una comunità, non è considerata, non si fa difficoltà a capirla. Cioè, anche qui esemplifico nel modo più banale: le discussioni per anni, tuttora, sul costo della polizza auto, che sicuramente oggi è più elevata in Italia che non all'estero, ma non può essere collegato come in un meccanismo personale individuale, per cui c'è chi dice: ma come, io l'anno scorso non ho avuto incidenti, quindi ho dato 1.000 euro di polizza e non ho avuto in cambio niente, come se fosse una transazione do ut des e non una suddivisione di un rischio collettivo. Per fortuna che non ho avuto in cambio niente, perché se avessi avuto in cambio qualcosa vuol dire che ha avuto qualche incidente, quindi meglio non averli. Allora, passando appunto, parlando di solidarietà, passiamo a parlare del Banco Alimentare. Come funziona il Banco Alimentare? Dunque, il Banco Alimentare, innanzitutto un flash sull'organizzazione, per usare anche i termini giusti: Fondazione Banco Alimentare, che è una fondazione centrale, aziendalmente diremmo la holding, è il punto di coerenza, di raccordo di una rete fatta da 21 associazioni onlus sul territorio, praticamente una per regione. La mission, il punto di valore dello scopo della Fondazione Banco Alimentare e della sua rete è recuperare eccedenze alimentari e redistribuirle alle strutture caritative. Quindi già dico alcune definizioni, se vogliamo. Eccedenze vuol dire ciò che il processo di produzione o di distribuzione alimentare ha ancora a sua disposizione, un proprio asset ancora, quindi alimenti perfettamente commestibili, ma che per motivi o di marketing o di rottura dell'imballaggio o di vicinanza alla scadenza, alla data di scadenza, o per esempio di etichettatura legata a una promozione, a un'offerta, non sono più commercializzabili. Nessuno le potrebbe mettere in vendita, nessuno le vorrebbe comprare. Pensate all'esempio banale di ognuno di noi che compra uno yogurt e va, o latte, e va a prendere quello della data a scadenza più lontana, certo, lasciando lì immancabilmente quello che scade magari tra 4 giorni, buono, ma che rimarrà lì tutti questi 4 giorni. Allora, queste eccedenze alimentari, che sono in Italia, si stima da un nostro studio fatto col Politecnico di Milano e con la Fondazione per la Sussidiarietà, si stima essere in 6 milioni di tonnellate. Queste eccedenze sono in parte recuperabili. Noi ci occupiamo di recuperare il più possibile queste eccedenze per dare loro un nuovo valore. Quindi i vostri interlocutori sono le aziende produttrici, ma anche le aziende commerciali, distributrici, le aziende di distribuzione, supermercati. E negli ultimi 10 anni dei 25 di vita del Banco Alimentare in Italia, anche il catering. Perché, cosa che è più nota probabilmente a tutti gli ascoltatori, quando si chiude un ristorante la sera, una pizzeria, una panetteria, ci sono delle eccedenze e degli avanzi che il giorno dopo non verranno venduti. Ecco, questo ovviamente è un costo di recupero molto più elevato. Immaginate il confronto di un grande pastificio che ci manda un invenduto di un tir intero rispetto al costo di una panetteria che ha 2 sacchi di pane, cioè il costo di recupero è completamente diverso, o un ristorante. Però il grande sforzo degli ultimi 10 anni, con un programma del Banco Alimentare che si chiama City Cibo, è quello di recuperare anche dal catering pranzi pronti, quindi pasti già pronti, che in questo caso vengono in giornata riportati e ridistribuiti a strutture caritative di mense per poveri. Quindi gli utilizzatori sono soprattutto strutture, non avete una rete che va anche, diciamo, nella singola famiglia? No, noi di vocazione siamo quello che si dice un'organizzazione sussidiaria, cioè sosteniamo dietro le spalle le strutture caritative sul territorio. Per dare 2 numeri, le strutture caritative in Italia sono circa 15.000, ce ne sono 9.000 circa convenzionate con noi. Noi ci leghiamo e forniamo questi tipi di alimenti sia in forma appunto di piatti pronti, sia in forma di scatoloni, camioncini, grandi quantità di alimenti secchi e conservati. Le forniamo soprattutto a strutture che non hanno altre sovvenzioni. Incontri. Se potessi avere 1.000 lire al mese. Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Ancora con queste note, 1.000 lire al mese ci ricordano altri tempi, altri valori, altre monete, monete che non sono più della nostra attualità. E riprendiamo il nostro incontro con Andrea Giussani, presidente del Banco Alimentare. Stavamo appunto parlando alla fine della prima parte del nostro programma della realtà di questo Banco Alimentare, che recupera le eccedenze da parte delle grandi imprese, da parte dei centri commerciali, anche da parte dei ristoranti e dei negozi, diceva nell'ultima parte, per poi redistribuirle soprattutto alle organizzazioni caritative, alle organizzazioni che hanno bisogno di cibo a poco prezzo o se non gratuito. Allora, diciamo, com'è la struttura del Banco Alimentare? Quante persone vi operano? Quante sono quelle che operano in una struttura come professione, quindi sono pagate? E poi quanti volontari ruotano attorno al Banco Alimentare? Sì, le strutture, dicevamo, sono 21 associazioni in Italia, oltre alla fondazione. Il totale, diamo dei numeri complessivi, vi sono 1.700 volontari continuativi. Non tutti sono presenti tutti i giorni, ma sono continuativi, quindi hanno una continuità di prestazione. E poi ci sono circa un centinaio di dipendenti messi nelle posizioni che devono garantire un'assoluta continuità. Immaginate un responsabile di magazzino piuttosto che chi fa certi tipi di trasporti di una certa durata. E anche per questo che ci sono bisogno, tornando all'inizio, anche di finanziamenti, perché queste persone vanno giustamente pagate. Eh sì, guardi, le faccio una confessione di neofita, perché al Banco Alimentare sono arrivato 3 anni fa, quindi forse vivevo anch'io di questa illusione. Cioè, uno pensa, il Banco Alimentare, tutta questa organizzazione, come dicevo all'inizio, di persone buone, no? Gratuitamente riceve alimenti dalle aziende, gratuitamente con i volontari le organizza, gratuitamente le distribuisce. Quindi è tutto gratis, che bello, evviva. In realtà non è così, perché la benzina costa, gli affitti costano, le utenze e anche alcuni dipendenti. Quindi noi siamo costretti a vivere anche di un bilanciamento economico. Come facciamo? Facciamo raccolta fondi. Di fatto noi chiediamo a tutti gli amici, a chi ci conosce, mai a chi riceve i nostri alimenti, perché ripeto sono dati gratuitamente, chiediamo sostegno. Gli strumenti sono quelli noti, 5 per 1000, le donazioni, la generosità. Qualche volta, ultimamente questa parte si è molto intensificata, anche dei progetti, dei lavori, delle occasioni di visibilità e di lavoro insieme alle aziende, alle banche, alle fondazioni. Cioè occasioni in cui si possa dire a più utenze, anche di una certa disponibilità economica, guardate che esiste la possibilità di impiegare i propri profitti, i propri soldi. Di sponsorizzare delle iniziative particolari? Sì, esattamente. Ecco, in questa prospettiva, ecco, come la crisi ha un po' influito su questa... Drammaticamente, perché tutti coloro che generosamente sostenevano la rete del Banco Alimentare con donazioni di una certa entità, di una significativa entità, hanno cominciato prima a ridurre le quantità, diciamo così, e poi anche ad eliminarle. E quindi i nostri donatori privati grandi si sono assottigliati enormemente. Donatori finanziari. Finanziari. Mentre quelli, diciamo, concreti degli alimenti. Beh, questi sono aumentati fortunatamente, anche perché è aumentata la consapevolezza del fatto che lo spreco è davvero un peccato sociale. E probabilmente è aumentata anche la richiesta, però, poi da parte... Enormemente. Infatti la nostra grande forbice in questi anni di crisi è che chi chiede alimenti è drammaticamente aumentato, chi dona per sostenere un'opera come la nostra è diminuito. Dico anche qui un numero, tutte le volte che lo dico mi stupisco dello stesso numero. L'AGEA, che è l'agenzia che eroga gli alimenti in Italia da fondi europei, ha calcolato che nel 2010 la popolazione che aveva bisogno, quindi detta di rischio di povertà a rischio alimentare, che ha bisogno di un pasto il giorno dopo, era di circa 3 milioni di persone. Oggi toccano i 4 milioni, quindi dopo 4 anni 1 milione di poveri alimentari in più. Questo significa che la domanda di alimento aumenta. E quindi persone che si rivolgono alle mense gestite dai frati, gestite dalle comunità, che quindi aumentano e voi fornite. E aumentano la pressione verso di noi. Verso quindi. Di voi, infatti. Ecco, ma allora che cosa può fare una persona? Indubbiamente versare dei fondi da un euro a un milione di euro, anche di più ovviamente, non poniamo dei limiti, partecipare alle vostre iniziative, siete aperti appunto anche a un volontariato, che so, un giorno alla settimana? Beh, noi siamo aperti ovunque, in tutta Italia, certamente se uno abita in una parte lontana dal nostro magazzino può fare qualche difficoltà, quindi è meglio lì aiutare economicamente, però in generale ci si può rivolgere per il volontariato a tutte le regioni e abbiamo un sito dove si può leggere tutto quello che interessa un potenziale volontario, www.bancoalimentare.it, e quindi lì si trova tutto. Poi c'è il grande momento di volontariato veramente aperto a tutti, che è la giornata nazionale della colletta alimentare. Manca ancora qualche mese, ma il 30 di novembre quest'anno, l'ultimo sabato di novembre ogni anno, in tutta Europa e anche noi in Italia teniamo questo grande evento. Anche qui, per dare la dimensione, l'anno scorso ci sono stati circa 10.200 punti vendita, supermercati prevalentemente, nei quali sono passati circa 5 milioni di consumatori, ai quali dai 135.000 volontari, che questa volta non sono solo del banco, ma sono anche quelli, per esempio, delle strutture caritative, cioè quelli che ci ringraziano in questo modo della nostra attività un giorno all'anno. E questi volontari chiedono a tutti i passanti, a tutte le persone che entrano nei negozi, di fare una spesa in più, una piccola sporta, un pezzo di carrello, 4 scatolette, un alimento per l'infanzia, da donare ai volontari, che li faranno avere poi opportunamente suddivisi e distribuiti alle strutture caritative. Quindi in questo caso non è un recupero di uno spreco, ma è un dono, è proprio un dono. Certo, la scatoletta di tonno che dura ancora un anno e che può essere appunto... E in questo caso la grande differenza, se vuole, ma che io trovo sempre edificante, è che si chiede alla gente di donare, e di donare qualcosa di cui forse si è perso un po' il senso, cioè il fatto che il cibo è davvero un oggetto di dono. Se pensiamo al fatto che il cibo viene dalla terra e quindi ci è donato dalla natura, in molti casi è donato da circostanze che noi nemmeno conosciamo, dall'opera della gente che lo cucina, che lo produce, dalla mamma, dalla nonna che fanno dei piatti particolarmente curi, in cui mettono non solo la ricetta ma anche l'amore per il destinatario. A questo punto diventa un dono per chi non ce l'ha. Quindi davvero è un'occasione di ripresa anche di certi valori che noi proponiamo, certo, in questa occasione. E anche in fondo l'attenzione, ridurre lo spreco è un modo per essere più attenti, in fondo per dare dignità alle cose, dignità appunto alle produzioni alimentari, ai beni alimentari, che non sono cose che magari appunto per persone normali possono essere ampiamente disponibili, ma per alcuni possono essere invece di vitale importanza. E questa dignità in fondo è richiamata anche da questa iniziativa. Sì. Sì, noi sottolineiamo molto questo aspetto di partecipazione, chiamiamola popolare, di fine novembre, che perché permette a noi di farci conoscere e alla gente di partecipare almeno una volta a tutto questo che facciamo. Però questa è anche la grande occasione per dire, guardate, esistono delle situazioni diverse dalle vostre, esiste una persona che non vive nella condizione in cui vivi tu. Questo vi pone però anche qualche problema logistico, perché avete una massa di prodotti che arrivano in un momento particolare, che poi si tratta anche di gestirli, dividerli, suddividerli. Sì, anche qui per fortuna abbiamo delle occasioni di generosità di diverso tipo, per cui ci sono organizzazioni che ci danno gratuitamente per qualche mese dei magazzini aggiuntivi, ci sono dei trasportatori che ci danno qualche trasporto gratuito, quindi è vero che esiste una rete di sostegno. Ma io dico anche che c'è un grandissimo spazio in più da colmare, quindi che è una possibilità per tutti. Qual è il problema più grosso che ha affrontato in questi primi anni appunto di presidenza del Banco Alimentare? Ma allora, quello detto prima, quello economico, su cui non torno più, ma che è il mio cruccio quotidiano. Io pensavo, finita la vita dell'azienda in cui mi chiedevano i risultati economici quotidianamente, qui non sarà così, invece è così, è uguale. Anche perché noi sentiamo sulle spalle, in questo caso, non la responsabilità verso un azionista o un proprietario, ma verso il destinatario finale. Cioè, detto proprio in sintesi, se noi non riusciamo a raccogliere gli alimenti perché ci mancano, per esempio, i soldi dei trasporti, per pagare i trasporti, la struttura della parrocchia, della San Vincenzo, della Caritas, non riceverà gli alimenti, e quindi il povero non riceverà gli alimenti. Quindi la nostra responsabilità è verso questi destinatari. Il secondo grande tema, diciamo, di fatica, di difficoltà, ma anche di grande sfida, è stato quello di introdurre una serie di metodologie di lavoro in tutta la rete, un po', se vogliamo, aziendali, un metodo di lavoro, delle forme di reporting, delle forme di controllo dell'organizzazione, delle forme di collaborazione e di competenza. In persone che hanno sempre lavorato soprattutto per una grande spinta ideale che tutti i giorni mi commuove, tutti i giorni mi insegna, però una spinta ideale che nel tempo non regge se non è instradata in metodi concreti operativi. E che cosa le ha dato allora maggiore soddisfazione? Magari qualche confessione da parte di qualcuno che ha partecipato a qualche iniziativa, qualche confidenza da parte di chi dà il proprio tempo per un'opera di questo tipo? Ma io cito due versanti della, diciamo, mia motivazione o mia spinta a continuare. Il primo è che moltissime persone, quando sono arrivato, tendevano a guardarmi come, vabbè, questo qua viene dall'azienda, chissà cosa ha in testa, no? E poi non conosce, non sa cosa noi facciamo. E quindi io ho sempre fatto in questo modo, che cos'altro di nuovo ci potrà essere? Invece il fatto di scoprire con loro che ci sono modi di lavoro, collaborazione, il cosiddetto team in azienda, che può produrre molti risultati proprio per lo scopo finale. Quindi l'aver in qualche modo accompagnato persone a scoprire un modo di lavoro diverso. Il secondo aspetto è questo. Mi sono reso conto di questo. Noi siamo un'organizzazione che, da un certo punto di vista, non ha una grande attrattiva di marketing. Cioè, voglio dire, noi non possiamo dire che il nostro destinatario è una persona povera, è una persona handicappata, è una persona che sta in Africa, in un paese sottosviluppato. Cioè, facciamo fatica a commuovere l'interlocutore. Allora, che cos'è che mi commuove? Il fatto di sapere che ci sono in Italia migliaia di persone che silenziosamente, ogni giorno, lavorano per questo scopo senza nessuna attenzione dei media, senza nessun premio economico, ma semplicemente per una motivazione originaria. Per me questa è la più grande leva di impegno. Ecco, speriamo di aver dato anche con questo nostro incontro un modo per riflettere su queste iniziative, per valorizzarle, per capire appunto che ci sono anche tanti che operano a fin di bene per cercare di fare un mondo in cui ci siano meno sprechi, ci sia maggiore giustizia, maggiore equità e anche maggiore partecipazione, e speriamo anche un po' di maggiore felicità. Grazie ad Andrea Giussani, presidente del Banco Alimentare, di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, con tutte le sue puntate, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.